So che non dovresti sentirti distrutta. Fa male vederti rassegnata e sconfitta. Il rischio era questo, vederci annientati dal tempo e dai sogni che tanto volevi. Io non ho principi, non ho religioni. A volte mi pento ma non cerco ragioni. Le storie hanno un senso finché non ti siedi ed occhi negli occhi ti guardi e non vedi. Voglio starmene fermo. Fermo, ti prego lasciami fermo. Fermo, come il cielo che è fermo. Fermo. Non hai sentimenti, mi accusi di questo. Ma io non sono quello che scrivo in un testo. La musica esce ma non mi descrive. Io creo una canzone ma lei è vita che vive. Non siamo più sogno e nemmeno passione. Ci siamo poggiati come sul prato le rose. Io ne esco sconfitto e fa niente per questo. Ho solo bisogno di starmene fermo. Fermo, ti prego lasciami fermo. Fermo, ti prego lasciami fermo. Fermo, ti prego lasciami fermo.